换火眷恋，长安都企傲世。Fatto di sogni e alcuni li vedrai. Non andar via, che insieme li vedremo. Sarà quel giorno che il sole splenderà. Sui nostri sguardi quella luce vincerà. E la speranza che c'è dentro di noi. E poi tu mi dirai cosa senti. Non saprò mai ridarti le parole, sono servite a credere a me stesso. Ma ora basta, diamo un senso a questa vita. C'è quel qualcosa che si muove tra di noi. Sono le frasi che dipingono la vita. Sanno di pace.